È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E basta la salute, e si dice sempre, si ripete. Mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata. La facciamo noi la serenata, 19.02 su Wombat. Benvenute, benvenuti tutti quanti voi ascoltatori, siete ben una decina. Mi piace immaginare che siate 10.000, siete 10, ma siete caldissime, grazie, grazie. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto potevamo scegliere meglio una sigla un po' ottimista. Camicia dalla Val di Susa vi saluta tantissimo. 19.03, diretta speciale come tutti i giorni, dalle 19 alle 21, e diretta speciale di Wombat per voi, ovviamente, per parlare di un po' di news sull'unico tema di cui si può praticamente parlare adesso, il coso, come lo chiama qualcuno, il coronavirus, Covid-19, o come volete. Intanto qui continua un po' la musichetta. Sono qui con Carmelo, ovviamente, che mi piace fare le cose da solo, che vi saluta e dopo vi racconterà un po' di belle cose. E pare che ci siano già delle bellissime notizie che vi do, penso, in anteprima, mondiale. Occhio, occhio, occhio. Fatemi riaprire la notizia, eccola qua, dall'ANSA di circa 40 minuti fa. È da pare ci sia una circolare del Viminale ai prefetti che dice questo: è da intendersi consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. Lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per chiarimenti sui divieti di assembramento e spostamenti. E l'attività motoria generalmente consentita, precisa il testo, non va intesa come equivalente all'attività sportiva, cioè il jogging. Possibile invece camminare in prossimità della propria abitazione. Siamo contentissime che piano piano, ecco, vengano prese delle misure e che si capisca l'assurdità di certe disposizioni. Probabilmente speriamo anche tra una settimana anche sul jogging si facciano ulteriori chiarimenti. Qui Carmine mi indicava la manina. Perché non si poteva? Non si poteva. Non potevi, almeno non l'avevano chiarito se ci poteva uscire col figlio o no. Io già mi immagino domani tutti gireranno, lo possiamo girare io e te, Carmine, e poi posso far finta di essere tuo figlio, anche se troppi peli per essere considerato minorenne. Mi nonno. Evviva, siamo tutti in super mood stasera. La seconda notizia, sempre proprio in anteprima mondiale, di un'oretta fa, parla di un test che identifica la presenza degli anticorpi che si sviluppano contraendo il Covid-19, che verrà eseguito a Firenze da una rete di laboratori di analisi accreditati privati al prezzo di 25 euro. L'esame potrà essere eseguito solo da chi non ha sintomi e non è in regime di quarantena. Quindi, questa è una super notizia. Il test sierologico rapido in grado di evidenziare se si è contratto il coronavirus sarà prenotabile online da domani per tutti i residenti del comune di Firenze attraverso il sito della startup fiorentina cupsolidale.it. Insomma, è veramente un susseguirsi di belle notizie. E la terza è ovviamente che pare fonti accreditate scientifiche dicono che da quando il Papa ha fatto l'urbi et orbi venerdì scorso i nuovi casi positivi sono diminuiti dal sabato. Incredibilmente è riuscito, deve avere un team incredibile dietro che gli ha detto: guarda, i giorni del picco saranno quei giorni lì, ci sta proprio bene il discorso poco prima che si scollini. Ovviamente ci facciamo gli scongiuri e speriamo davvero, come tanto paese, noi di scollinare, perché poi in altri paesi siano ancora molto lontani dal vedere lontanamente la luce. Oppure gli era consigliato qualche nonnina che, come la medicina popolare insegna, verso fine marzo, all'inizio di aprile, le influenze tendono a diminuire, ad abbassarsi. Posso fare un appello, già che ho il microfono in mano? Potete regalarci un microfono, per favore, ne abbiamo uno solo e dobbiamo contendercelo, e io ci prendo gusto. Se ne regalate uno, sarei molto piacere. Vi dico che casino avere un microfono in due, stare nella stessa casa in due, avere un letto in due, voi lo sapete meglio di me. Bene, dai, dai 19.07 abbiamo già cominciato abbastanza bene, mi vorrei dedicare una birretta ora. Ah, salute. E si va subito con un po' di musica, come sempre noi musica più o meno al chilometro zero, cerchiamo di mettere e far ascoltare gruppi che non hanno grandi spazi a livello nazionale o mondiale, ma che dovrebbero averne. E quindi si comincia subito con i Sex Pistols, complimenti al super mega trio Bavecchi d'Elia Vassallo, bravi bravi bravi ragazzi. شوفوا كوردادو تبارك الله عليه الخميس عليه الحوت عليه ما شاء الله عليه الثالث روعه روعه روعه ragazzi, io sono Paolo. E io sono Nimea e viviamo in Portogallo. Allora, la situazione del coronavirus qui è un po' migliore rispetto all'Italia. Ci sono un poco meno di 6.000 contagiati e un centinaio di morti. Nella regione dove siamo noi, che è a sud, l'Algarve, i contagiati sono un'ottantina e circa 3 sono le persone morte. La situazione in generale è sostenibile, siamo in quarantena volontaria da più di 3 settimane, e però in generale il governo ha chiesto a tutta la popolazione portoghese di rimanere in isolamento, quindi limitati i contatti sociali. Si può uscire di casa solo per la spesa o per recarsi in farmacia o alcuni per andare a lavorare, perché comunque ci sono delle attività aperte, però ristoranti, bar e tutto quello che ha a che fare con gli assembramenti sono vietati. La cosa che non è ben chiaro come in Italia, nel senso, non è che qui serve un'autocertificazione, uno esce, va a fare le sue commissioni e anche la GNR, che è la polizia di qua, è abbastanza disorientata, non sa bene come comportarsi, perché in teoria sul decreto c'è scritto che non si può avere l'accesso alle spiagge e qualche giorno fa c'erano delle persone che surfavano e quindi dalla spiaggia ci sono passate e la GNR ha palesemente detto che non sono mica sulla spiaggia, stanno surfando. Nel senso, c'è un po' di confusione, non è esattamente chiaro come procedere. Altre implementazioni che sono state fatte, chi chiaramente qui era con camper e furgoni è stato invitato ad allontanarsi con un decreto esecutivo nell'arco di 5 giorni. Ci sono un sacco di situazioni in cui gente ha comunque offerto spazio verde, quindi parchi, giardini, in cui dare la possibilità a chi era con camper o col van di fermarsi in modo tale da potersi isolare altrettanto come chi ha una casa. In questo momento il turismo è morto, c'è pochissimo movimento, molti portoghesi del nord si sono spostati all'inizio dei casini, dei tumulti, diciamo così, verso sud nelle seconde case. Nonostante il primo ministro portoghese avesse appunto invitato a usare il buon senso e a evitare qualunque tipo di spostamento. La situazione dall'Italia, chiaramente per noi la viviamo attraverso bocca e orecchie delle persone con cui parliamo, dei lavori che facciamo. La mia visione è una situazione confusionaria, non c'è coordinamento, o comunque quello che c'è è arrivato forse solo negli ultimi giorni. La situazione per gli operatori sanitari mi sembra drammatica e allo stesso modo la sanità pubblica italiana da fuori non dimostra quell'eccellenza che siamo sempre andati sventolando. La mia percezione, che è più vissuta attraverso le persone che conosco, più a livello personale che professionale, diciamo, è comunque... Le persone le vedo bene, nel senso consce del fatto che c'è da stare in casa, cercare di prendere il meglio possibile da questa situazione qua, e le vedo la maggior parte coraggiose. Ho qualche caso di qualche amico o amica un po' più presi male, diciamo, però... per la maggior parte vedo le persone prese bene. Speriamo di avervi dato una sventagliata veloce. Esatto, quello che c'è qua e quello che si vede di là. Esatto, un abbraccio a tutti. Ciao, un abbraccio. Mi hanno rubato il tempo ad aspettare in fila. banale il tuo male. Mi sembra di impazzire con tutta questa gente a cena. Pesce crudo per dimagrire, estinzione o you can eat. Ah ah. Perché sono stanca, perché ho finito i soldi, perché giro a vuoto per riempire il vuoto. Mi sembra di impazzire, tu mi hai lasciato sola in mezzo ai grattacieli che coprono i tramonti. Sono la luce del lontano futuro, sono Zingara come una carta, sono la figlia degli anni 90, il freddo mi crisi economica e logica. Sono la terza guerra mondiale, sono la terza guerra mondiale, sono la terza guerra mondiale, sono la terza guerra mondiale. Ciao a tutti dal Canada. Qua la situazione è molto diversa da come quella italiana, per quanto io possa capire da leggere le notizie su internet. Innanzitutto bisogna capire che geograficamente e politicamente il Canada è molto federale, per cui sì, ci sono ovviamente delle politiche a livello nazionale, ma anche per ragioni di dimensioni ciascuna provincia ha molta molta indipendenza nelle decisioni, per cui io per esempio mi trovo nell'estremo ovest del British Columbia, su Vancouver Island, e qua le politiche del British Columbia non sono necessariamente le stesse dell'Ontario piuttosto che del Quebec. Nomino queste due province oltre al British Columbia perché queste sono le tre che sono più popolate e di conseguenza sono anche quelle che hanno un numero più elevato di casi del Covid-19. Però tanto per cominciare bisogna capire i numeri, perché qua i numeri sono estremamente più bassi di quelli italiani, anche per ragioni di popolazione ovviamente, ci sono solo 30 milioni di canadesi. I casi fino a ieri perlomeno erano 7.400 con un totale di 89 morti. Questo di tutto il Canada. Nel British Columbia ce ne sono 970 e un totale di 19 morti, quindi numeri estremamente più bassi, e tra l'altro sono tutti 19 del British Columbia, sono persone molto anziane con problemi di salute precedenti. Negli ultimi 5-6 giorni l'Ontario, quindi all'ovest, la provincia di Toronto, è passata a un lockdown molto più stretto. Per quanto riguarda noi, qua ci si è il lockdown è molto più labile, nel senso che noi comunque siamo completamente ci è permesso di uscire senza nessun problema, anche se comunque l'avviso è stare a casa, quindi cercare di limitare gli spostamenti. Si è cominciato però con direi molto più in anticipo di quello che è sembrato succedere in stati europei come l'Italia, la Spagna o la Francia, dove si è aspettato molto prima di intervenire. Questo ci ha permesso, almeno fino adesso, chiaramente siamo in ritardo di perlomeno 2-3 settimane sull'Italia, per cui bisogna vedere come si evolverà la situazione, ma fino adesso si è mantenuta, si è riuscito in modo con successo a tenere questa famosa curva dei contagiati molto sotto controllo. Per cui io in questo momento, per esempio, lavorando in un ristorante, ho perso lavoro 2 settimane fa, però ci sono politiche di tutela dei lavoratori molto avanzate, per cui noi riceveremo probabilmente nel giro di una settimana sostanzialmente un sussidio, che però va molto al di là del sussidio di disoccupazione, che è una somma fissa che ci dovrebbe permettere comunque di vivere piuttosto decentemente per i prossimi mesi. E poi vedremo come si evolverà la situazione. Un saluto dal Canada e buone cose. Ciao. Ed ecco a voi la diretta speciale. Dalle 19 fino alle 21 saremo insieme. Risultate. Eccoci. Ma non sentite questa ventata di freschezza nel sentire che tutto il mondo è nella merda come noi? Sì, è assolutamente così. E per ricitare di nuovo il personaggio più cool del momento, cioè Papa Francesco, non ci salviamo da soli. È veramente il personaggio più cool di questo periodo. Che ci sta perseguitando, perché mi è appena arrivato un messaggio per comunicare che proprio stasera il buon Papa Francesco ha convocato il mondo intero alle ore 20, ovunque ci si trovi e qualunque sia la propria fede, a prendere un momento di meditazione per la salute del mondo. Hai capito il Francis? La faremo in diretta su Wombat, allora, il minuto di silenzio. Una cosa super radiofonica, tra l'altro. 19:31, siete ancora connesse su Wombat. E stavo tra l'altro ridendo molto da solo prima, perché ascoltando le musichette sotto le interviste che sono state fatte, abbiamo cercato di mettere una musica a tema per ogni paese, e quindi ovviamente a Nix e Paul al Portogallo abbiamo messo una buona Amalia Rodriguez. Stati Uniti, Ryan ci ha chiesto un super funkettone blues eccetera, ma quando sono arrivato al Canada mi sono sentito in imbarazzo, perché non sapevo che cacchio di musica dovessi mettere, che si mette. Allora ho cercato musica popolare canadese, è venuto fuori questa cosa di chitarre, violino, chitarre, sì, è una cosa che in realtà era molto simile al Sud America, come... Insomma, vabbè, a parte queste digressioni, beh, continuiamo con un po' di musica, così non scassiamo neanche troppo, anche se sappiamo che vi stiamo tenendo compagnia con questo Aperi Wombat alle 19:32. Carmine. Allora, la prossima canzone è assai famosa, famosissima, perché è una canzone di Domenico Modugno e già probabilmente avete capito di che si tratta, che lui ha scritto partendo da una poesia di un anonimo siciliano che fu pubblicata nella seconda metà dell'Ottocento, pensate. E la versione che vi proponiamo oggi è quella delle mitiche Riciclette, che abbiamo già conosciuto e conosceremo sempre meglio, un gruppo di donne fantastiche, tutte mediterranee, che vivono in Piemonte e nella loro capacità di riciclare pezzi da tutto il mondo e nella loro essere autodidatte fanno della musica davvero eccezionale. Viva le Riciclette! Lume padroni mi strapazza, mi tratta come un cani per la via. Se piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia. Distruggila Gesù, sta mala razza. Distruggila Gesù, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia il bastone e ti lavora i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia il bastone e ti lavora. Evviva, evviva le riciclette, bravissime, bravissime, bravissime. 19.36, abbiamo sentito qualche interessantissimo contributo dal Portogallo e dal Canada, mentre metto una bella base sotto dell'Antibalas. Sente? Yes, senti che? Aperi Wombat. Sì. Dove si vola ora, Camicia? Dove si vola? Allora, dove si vola? Dove si vola? Si vola nel paese in cima alle classifiche. Stati Uniti, che in un barzello ha superato tutti quanti, prendendo le distanze dalla Cina, più raddoppiando i casi positivi rispetto alla Cina in pochi giorni. C'è 74.000 casi positivi, 10.900 nuovi, con 3.400 nuovi morti, e insomma, prendendo la cosa un po' sotto gamba, adesso gli sta ritornando tutta quanta, ahimè. Ci dispiace tantissimo, ovviamente. Abbiamo sentito Ryan, che da Washington ci ha mandato un po' il suo punto di vista, le sue considerazioni. Che dici, Carmine? Mando? Manda, Camicia. Ho poco da dire sull'Italia, nel senso che, ecco, la percezione che si ha qua dell'Italia, come se ne parla e per quello che raccontano un po' i media mainstream americani, ecco, non è che si approfondisca molto. Cioè, l'Italia è visto come un caso da evitare a tutti i costi, cosa dobbiamo fare per non diventare come l'Italia, per non subire le conseguenze del virus come è successo in Italia, però, ecco, non si approfondisce molto sulle ragioni che hanno fatto, che hanno reso il fenomeno così grave in Italia. Generalmente, cioè, sono fondamentalmente due messaggi che emergono sull'Italia. Il primo è che l'Italia è stata sfigata, fondamentalmente, cioè l'Italia ha dei flussi estremamente integrati, l'economia italiana è molto integrata con la Cina, ci sono, soprattutto rispetto ai flussi turistici, quindi si dice che fondamentalmente quello è stato un problema. Il virus era ben presente in Italia prima che si diagnosticasse come tale, e quindi l'Italia si è trovata fin dal primo giorno in una situazione di estrema emergenza, che non ha mai avuto il tempo di gestire, di contenere il virus dal primo giorno, e ha dovuto gestirlo come un'emergenza. Questo un po' si racconta. L'altra cosa, l'altro tema rispetto all'Italia che emerge è sicuramente grande rispetto per la classe medica italiana. Le notizie che spesso vengono date sull'Italia hanno sempre un po' un twist, appunto, Italia, italiani mafiosi, italiani fanno, non seguono tanto le regole, l'Italia è un paese un po' così cosa. Invece, ecco, su questo, sulla risposta medica, non c'è stato questo elemento che di solito è presente su come vengono raccontate le notizie che riguardano il nostro paese. È stato un po' presente rispetto alle misure, diciamo, restrittive, rispetto a come le persone in Italia hanno osservato le direttive di non stare a casa, di non uscire. Ci sono state un po' di storie su, appunto, come gli italiani sono stati creativi per eludere queste direttive, però in realtà insomma, tutto sommato è stata, non è una storia raccontata abbastanza bene, insomma, non ci sono non tanto approfondite, ecco. Sarebbe buono poter imparare dagli errori italiani per affrontare il virus meglio qua negli Stati Uniti. Passando invece, magari dopo dare un contributo un pochino più forse originale, sulla risposta americana. Trump ha negato l'esistenza o la gravità del fenomeno fino a molto recentemente, ed è poi pian piano è stata un'escalation fino a ieri, dove ha detto che se si raggiungeranno, se si conterranno le vittime sotto i 100.000 sarà successo. Quindi è stato un continuo ritardo rispetto nel raccontare il fenomeno rispetto a quello che in effetti stava succedendo, e con pochissimo occhio a ciò che succede al di fuori del paese, che forse è una pecca tipica non solo di Trump, ma in generale della classe dirigente statunitense. Gli americani non hanno mai avuto una guerra nel proprio territorio, hanno forse tradizionalmente questo tabù, questo mito delle libertà personali, che sono un valore assoluto, la libertà di armarsi, Quindi è stata una risposta tardiva, molto blanda. Qui a Washington, siamo la capitale, ancora non abbiamo direttive, cioè ci dicono di stare in casa, però in realtà non c'è nessun tipo di misura coercitiva. Beh, un altro fattore, diciamo, della risposta americana alla crisi è stata la mancanza di coordinazione. Anche questo probabilmente è una caratteristica un po' istituzionale. Sono un sistema federale, quindi c'è molta autonomia decisionale da parte degli stati. Un terzo punto sarà anno di elezioni, e quindi Trump se la sta giocando in quel senso, e lo sa, e questo spiega gran parte delle sue risposte a questa crisi. Quindi lui è passato da negare, diciamo, l'esistenza del problema a fare pressioni alla Fed perché dare tassi di interesse e a stanziare un pacchetto enorme, immenso. Insomma, sembra una risposta molto populista al problema, è quasi il tipico fenomeno di di spendere i soldi, indebitare lo Stato l'anno delle elezioni per fondamentalmente comprarsi consenso. Questi stessi grandi gruppi industriali che vengono chiamati a produrre alcuni beni strategici adesso sono gli stessi che si sono fatti molto ricchi in sostanza con la guerra, che hanno fondamentalmente armato il paese nella seconda guerra mondiale e poi sono diventati fondamentalmente lobby al settore delle automobili, eccetera. Ecco, un altro punto finale, poi mi fermo, riguarda il sistema sanitario americano. Cioè, in gran parte i problemi e le criticità legate a questo virus sono le stesse, però c'è da tener conto che il sistema sanitario americano è statunitense, veramente particolare e radicalmente diverso da quello italiano o di altri paesi europei. Innanzitutto abbiamo visto, no, che in Italia c'è una forte incidenza della mortalità del virus su fasce di popolazione ad alta ad età, ad anziani, diciamo. Ecco, qua, a parità di età, la popolazione statunitense ha più problemi di salute. E questo sicuramente è un tema dovuto al sistema sanitario, a come funziona, al fatto che grandi frangenti della popolazione non hanno accesso al sistema sanitario, di fatto non si possono permettere cure basiche, ampi frangenti della popolazione non hanno un contatto diretto con medici o con strutture sanitarie. Grazie Ryan, molto interessante il contributo. Continueremo a breve spostandoci magari in Medio Oriente, intanto però facciamo un po' una pausa con la tematica del Covid nel mondo, anzi Covid al mondo. Stanno girando un po' di testi simpatici sulle cose che il Covid-19 chiarisce. Ne ho lette varie versioni, ne abbiamo fatta una un po' nostra, prendendo comunque principalmente da testi già scritti, quindi ringrazio tutti coloro che hanno dato questo spunto. Allora, le 19 cose che il Covid-19 chiarisce. 1. Da soli non siamo nulla. 2. La Cina ha vinto la terza guerra mondiale senza lanciare un missile e nessuno se n'è accorto. 3. La prevenzione salva più vite che agire all'ultimo momento. 4. Gli operatori sanitari valgono più di un calciatore. Questo è bellissimo. 5. I bambini occupano un posto privilegiato in natura. 6. Il petrolio non vale nulla in una società senza consumo. 7. Il cibo sano e locale vale tutto. 8. La morte non distingue razza, colore o stato sociale. 9. Siamo ancora nell'epoca in cui spiccano gli esseri opportunisti e spregevoli rispetto a quelli realmente umani. 10. I social media ci avvicinano, ma è anche il mezzo che riesce a manipolarci. 11. Ora sappiamo come si sentono gli animali negli zoo. 12. I bambini di oggi non sanno più giocare senza internet o TV. 13. Alcuni guadagnano milioni e non servono l'umanità. 14. I lavoratori del settore sanitario sono soli, abbandonati e dimenticati, eppure, per fortuna, non si arrendono mai. 15. Iniziamo ad apprezzare il grande gesto di fiducia che significa stringerci la mano ed il calore di un abbraccio. 16. Il pianeta si rigenera rapidamente quando gli umani rallentano. Altrettanto rapidamente, aggiungerei. 17. Non siamo pronti per una pandemia, e non lo eravamo. Speriamo la prossima, e speriamo che non ci sia. 18. Occorre investire di più nella salute anziché investire in banche fallite. 19. Non importa la ricchezza monetaria e del potere nella società, un virus letale è democratico. Vivi quindi con rispetto per il bene di tutti. E poi magari settimana prossima ve le diremo altre 19, si va avanti così. cerchiamo, diciamo, piano piano di trovare quelli più interessanti da inserire per creare un po' di quei 19 comandamenti dell'essere umano normale. Cara Carmine, ti lascio un po' il microfono, di che ci parli invece oggi? Io continuo a portare con me la domanda che sta accompagnando le mie giornate su come abbracciare la paura. Abbiamo fatto lunghe riflessioni a riguardo nelle scorse puntate. Camicia, si dice puntate? Mi è uscita un po' in piemontese. Come si dice, puntate o trasmissione? Vabbè, insomma, le scorse volte. Al di là dei mille rimedi a uso interno e esterno e di tutto ciò di cui appunto abbiamo già parlato, un altro strumento adatto per abbracciare la paura che invade i nostri pensieri e i nostri cuori in questa fase è proprio il movimento, ma lo intendo nel suo ovviamente senso e aspetto più ampio, rivolgendomi principalmente a chi non ha il privilegio della vita in campagna ed è costretto completamente a casa, insomma, a casa là. Quindi il movimento come moto dello spirito, con un atteggiamento creativo e funzionale davanti all'impossibilità materiale che abbiamo di fare, muoverci, uscire, passeggiare. In che modo? Stimolando un nervo del nostro sistema nervoso autonomo, quello che non ha bisogno della volontà cosciente per attivarsi. È un nervo che attraversa il corpo, dal nostro cervello all'intestino, e che presiede, con proprio il suo 75% di fibre, al funzionamento di una delle due parti del sistema nervoso autonomo, il sistema parasimpatico. Abbiamo un po' spiegato che cos'è il sistema parasimpatico le scorse volte, lo ripeto brevemente: ci permette di favorire gli stati di calma, di rilassamento, la rigenerazione tessutale e quegli stati di abbandono e di fiducia. E l'altra parte invece del sistema nervoso autonomo è il simpatico, o anche conosciuto come ortosimpatico, che invece è il sistema dell'attacco-fuga, della risposta stressoria, dell'adrenalina e del cortisolo, ormoni che abbiamo conosciuto bene appunto nella scorsa puntata. Questo nervo è il nervo vago e il suo buon funzionamento da una parte aiuta a evitare di intossicarci, appesantirci in questi giorni di ritiro forzato, e dall'altra parte può aiutarci a mitigare quegli stati d'ansia, appunto di angoscia, e che possono scaturire in una fame nervosa e insaziabile. Il nervo vago cosa fa? Aiuta a portare delle informazioni che siano proprio sensitive agli organi interni, principalmente faringe, laringe, esofago, quindi diciamo gola, cuore, fegato, cistifella, reni, milza, sino all'intestino, proprio partendo dal cervello, attraverso proprio il liberare i neurotrasmettitori come la serotonina e l'ossitocina, ricevendo informazioni nervose motorie, con la corrispondente quindi liberazione della ceticolina. Anche di questo abbiamo parlato nella scorsa trasmissione. La ceticolina, vi ricordo, che è proprio quel veicolo principale delle risposte antinfiammatorie dell'organismo, quindi permette proprio lo stato del nostro equilibrio organico, quindi lo stato di salute. Per farla semplice, se dal mio microbiota, dal mio intestino arrivano dei buoni segnali, degli input positivi, perché sto mangiando con attenzione, senza abbuffarmi, senza esagerare o senza sfogare la mia ansia nel cibo, il mio cervello risponderà con uno stato di benessere generale e l'energia insomma, che sprigionerà dal mio corpo sarà una fonte di calma e di serenità. E ricordo che l'intestino, anche di questo ne abbiamo già parlato, è proprio la sede del sistema immunitario, che è la nostra grande difesa da tutti gli attacchi virali. Quindi cerchiamo di limitare il più possibile le solite raccomandazioni, quindi zuccheri semplici, glutine industriale, formaggio e carne rossa industriali, salse, salsine, cremine, sughetti, intingoli vari, ma soprattutto insaccati, e alcol e farine raffinate. Però senza privarci anche di questo, possiamo farlo per esempio a mano. Quindi tutto pasta, ciambelloni, pizze, torte, scegliendo ingredienti però di buona qualità e possibilmente con farine integrali. Già questo può aiutare a soddisfare un po' la fame smaniosa, può avere funzione calmante e può essere anche una specie di meditazione attiva se fatta con il focus sui nostri movimenti, quindi pulire le verdure di stagione che sono state acquistate nei vari circuiti genuini di fiducia, possiamo cuocere i nostri cibi lentamente, sperimentare nuovi piatti, usare nuove spezie, dedicarci proprio con amore alla preparazione di questo cibo che poi nutrirà il nostro cuore, la nostra mente, le nostre pance. E con questo stesso amore nutriremo le nostre cellule e il sistema immunitario. E quindi tutti i piccoli gesti che possono essere un segno di speranza per il nostro anche sistema nervoso, quindi i nostri pensieri, i nostri intenti, possono plasmare la nostra esistenza. E l'energia che viene prodotta si traduce in vibrazioni elettromagnetiche che possono agire poi anche sulle nostre giornate, semplicemente. E questo direi. Poi vorrei raccontarvi un po' di altre cose, ma mi tolgono il microfono dalle mani. Sì, ma quindi in poche parole, che si mangia? Allora, più che di che si mangia, cioè più che parlare di consociazione dei cibi, che chiaramente sono molto importanti per la nostra omeostasi, a me piacerebbe più dire parlare della qualità, cioè della materia prima, cioè del cibo vero. Quindi scegliere proprio quei prodotti che corrispondono al principio di vitalità e di genuinità. È l'unica sicurezza, diciamo, per salvarci dalla chimica agroalimentare e l'agricoltura contadina di fiducia. Solo lei ci può garantire davvero che non vengano usati gli acceleratori di crescita, pesticidi, fertilizzanti, e appunto che i prodotti maturino seguendo la loro natura e i loro tempi, sia per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale ma anche per quelli di origine animale. Infatti sono materie prime che provengono da allevamenti in condizioni proprio adatte allo stato psicofisico dell'animale, e gli viene concesso spazio per muoversi, spazio per pascolare, e vengono nutriti soprattutto con foraggi sani. Quindi la vitalità permette di avere ortaggi, frutta, carni, uova, latte e tutti i suoi derivati che siano di una qualità ottima, ricca di proprietà nutritive, da un sapore vero. Queste sono cose banali che molti di noi sappiamo, ma secondo me è sempre importante ricordarlo, anche perché per quanto riguarda il sapore autentico, fa sì che non ci sia bisogno chiaramente di aromi artificiali, né di coloranti, né di emulsionanti, e diciamo che anche tutte le persone che presentano intolleranze alimentari, non tutte, però molte, passando da una alimentazione industriale, un'alimentazione chiamiamola naturale, hanno risolto davvero tanti problemi, grazie semplicemente eliminando gli additivi dalle loro tavole. In più questi alimenti sono nutrienti nel vero senso della parola, perché conservano intatto proprio il loro patrimonio energetico di proteine, vitamine, minerali. E ciò significa che tutte le grandi montagne di cibo che l'industria alimentare ci costringe a consumare per trovare anche un minimo di sostanza si riduce poi a dei pasti che sono di una quantità anche inferiore ma di un'altissima qualità. Quindi è vero che gli alimenti, chiamiamoli biologici, ma a me piace più chiamarli organici o naturali, perché non è importante tanto il marchio, ma è la fiducia che si ha nel produttore, cioè in chi li produce, hanno un costo superiore, però questo costo è anche compensato in fondo dalla diminuzione poi della quantità che viene cioè viene proprio mangiata dall'organismo, perché il corpo, trovando più nutrimento, richiede anche meno cibo. Quindi effetto dimagrimento assicurato, perché comunque al corpo, non venendo più somministrate sostanze chimiche che non riesce a smaltire, può incominciare anche un processo di disintossicazione, liberarsi delle scorie che lo appesantiscono. Normalmente, mangiando genuini, gli intestini si regolarizzano, anche il sistema digestivo, cardiocircolatorio, che è spesso affaticato dalla chimica e soprattutto dal troppo lavoro che impiega il sistema digestivo per digerire i cibi indigesti. Ho ancora qualche secondo. Bene, per molti mi chiedono appunto come distinguere il vero naturale dal falso in questi tempi in cui comunque si parla molto di biologico, e tutto il problema del greenwashing, dell'agrobusiness, in cui appunto c'è odore di cash, entrano le multinazionali, entra anche la chimica, e soprattutto anche all'interno dei supermercati. Quindi per esempio, per chi, proprio per dare degli esempi pratici, è del circuito della provincia di Firenze, ricordiamo il mercato, insomma anche proprio più che altro per il quartiere di San Frediano, ricordiamo il mercato Genuino Clandestino, che abbiamo sia in Piazza Tasso e anche nel quartiere dell'Isolotto, che in questo preciso momento, a causa della contingenza in atto, è spostato in Piazza del Carmine. E lo troviamo tutti i venerdì dalle 15.30 alle 19. Vai, per alleggerire un pochino la puntata, passiamo con un altro brano musicale. Ho deciso che si dice puntata, mi piace. Un altro brano musicale di un gruppo folk. E quindi andiamo al sud, direttamente da Irpinia, con Filomena e Macardia. Per cui la vita gioie non ha. Nel crudo inverno la nostra prole, per lunga inedia languir vedia, solo per i ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fame abbiamo. Pur natura tutti uguali, di e diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni e agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovraltro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Triste spettacolo, le nostre donne, per noi primizie non han d'amor, ma ancora in puberi, sciolte le gonne, si danno in braccio di lor signor. Sono nostri figli, tutti bambini, che guerra e crisi fanno morir, e tutti profughi di terra e mare, che coraggiosi voglio scappare. Pur natura tutti uguali, di e diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni e agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovraltro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Di patria al nome, da lor sospinti, contro altri popoli noi si pugnò, ma vincitori fossimo o vinti, la nostra sorte mai non cangiò. Tedesco d'Italo, se va padrone, il sangue nostro deve succhiar. La patria libera è un'irrisione, se ancora il pasto ci fa portare. Pur natura tutti uguali, di e diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni e agli oppressori. Non sia pace fra contro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Nelle officine, sui monti e i piani, giù nelle mine, sudiam, sudiam, ma delle nostre fatiche immani il frutto intero non raccogliamo. Poi fatti vecchi, veniam rinchiusi dentro ai ricoveri di carità, e sul berretto di noi reclusi bollano i ricchi la lor pietà. Pur natura tutti uguali, di e diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni e agli oppressori. Non sia pace fra i mortali finché un uomo sovraltro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Ma se sperare non è follia nella giustizia dell'avvenir, del privilegio di tirannia, il turpe regno dovrà finir. Le nostre lacrime, gli stenti l'onte, le gravi ambasce finir dovrà. Noi già leviam alta alla fronte per salutare l'astro lontano. Pur natura tutti uguali, di e diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni e agli oppressori. Non sia pace fra i mortali finché un uomo sovraltro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Alla nostra dama, ciao dama, so che ci stai ascoltando. Ciao dama, ti vogliamo bene. Io ricordo anche, vi ricordiamo domani invece Radio Contato da Frittole alle 2:30 alle 4:30, ascoltatelo, un bel programma sulla voce della continuità, contadinità, su Wombat Radio. Wombat Radio sono i nostri uno spettino. Ma senti, io volevo anche iniziare a lanciare il prossimo contributo. Formaggino e poi lanciare il prossimo contributo. Ma se sperare non è, le tome piemontesi non le batte nessuno. Forse le battono del privilegio. Sì, dai, no, sono al pari merito con Christian, Katrin e le fornaci come formaggi. Questa è mucca, quindi è vero, quindi torna. Ci sa, capri, pecore e adesso anche mucca. Scusate se mi sentite mangiare. Per salutare. Prossimo contributo, siamo passati dal Portogallo per poi attraversare l'oceano, Canada, Stati Uniti. Beh, non possiamo a questo punto non scendere giù in Sud America, nella mia amata Bolivia, dove Barbara, ciao Babi, è lì chiusa in casa alla Paz, una città dove c'è un bel po' di delirio, e sta cercando di tornare in Italia. Forse, speriamo, le auguriamo, riesca a trovare tramite l'ambasciata un volo per venire a farsi la quarantena qui in Italia. Quindi, insomma, grande Babi, ti ascoltiamo volentieri, grazie ancora del tuo contributo e vai. Ciao a tutti, sì, sono la Babi, sono qua alla Paz, anche io in quarantena, come tutti, come il 90% penso di questo globo terrestre, quindi... ma qui la situazione è, come dire, è andata in crescendo. Il primo caso di coronavirus è stato, diciamo così, monitorato intorno al 10 di marzo, e da allora fino al 20 di marzo circa, purtroppo non si sono prese misure, diciamo, di quarantena decenti, nel senso che sì, c'è stata la è stata emanata questa legge per cui le persone non potevano riunirsi più di 1000 persone in una volta, ecco, dai, da lì poi insomma potete immaginare come il virus comunque si sia propagato, perché la gente ha continuato tranquillamente ad andare nei mercati e qui è veramente molto difficile organizzare proprio anche un distanziamento sociale, è molto difficile. Quindi immaginatevi, comunque c'è un sacco di gente che vive per strada, a parte i ragazzi di strada, ma anche proprio povera gente, no? Che non ha la possibilità di stare chiuso in casa. Da domenica, questa domenica che era il 22, mi sembra, il 20, non mi ricordo più, domenica 22, le misure di restrizione del movimento sono state ancora più dure, nel senso che finalmente si è data proprio una chiusura alla possibilità di uscire di casa. Però è stata fatta abbastanza in maniera un po' violenta, penso, insomma, nel senso che non si può uscire di casa se non in base al proprio numero, del proprio documento d'identità, puoi uscire una volta alla settimana. Ecco. E sabato e domenica vietato uscire, pena galera di 8 giorni più una multa di 1000 pesos, e polizia e esercito controllano tutte le strade e controllano a spot, le persone che girano per la strada per verificare insomma la legalità o meno della loro presenza sulla strada. Qui la situazione è sicuramente più triste e più grave che non da noi, perché sicuramente un sacco di gente si ammalerà, un sacco di gente purtroppo non ha l'assicurazione medica, perché qui vige comunque, c'è un sistema sanitario basato sulle assicurazioni come negli Stati Uniti, per intenderci, per cui se non hai soldi tu non ti avvicini neanche a un ospedale. Questo significa che un sacco di gente neanche ci arriverà all'ospedale a fare l'indagine, a fare il test, il tampone per vedere se ha il coronavirus o meno. E quindi questo significa che non si saprà, tutta la gente che morirà o tutta la gente che si ammalerà e che se la vedrà da solo. E quindi noi non avremo in mano una percentuale reale della malattia e del suo evolversi qui in Bolivia. Molta gente appunto non si avvicinerà all'ospedale e quindi morirà al buio, no? Dalle statistiche. Comunque, da qui non c'è nient'altro di interessante da dirvi, se non che ovviamente poveri detenuti del carcere, non solo San Pedro, ma di tutte le carceri, perché fino a una settimana fa hanno lasciato libere le visite, e quindi è entrata un sacco di gente, ma già anche solo la settimana scorsa, due settimane fa. Comunque è stato comunque contaminato l'ambiente e so già di diversi casi di febbre dentro il carcere, perché comunque i ragazzi detenuti mi chiamano, mi avvisano di questo. Questo è molto triste. Speriamo bene, dai, speriamo bene per l'Italia, speriamo bene per il mondo, speriamo bene per tutti, per una vita migliore. E dalla PAS la tia Babi vi saluta. Ciao! Attenzione Sanfrediano, attenzione Contado, riapre il mercato genuino contadino, ma in Piazza del Carmine, ogni venerdì dalle 16 alle 19, in attesa di tornare nella tanto amata Piazza Tasso. Garantiremo cibo sano e locale, libero da pesticidi e contaminanti di ogni genere. Venite a trovarci! Tutela la tua salute e sostieni i contadini! molto interessante. Non avevo riacceso il microfono, infatti stavo parlando come un cretino da solo. Cos'è che avevo detto? Quindi salutavo tutte e tutti che mi stavano ascoltando, finché non è arrivato il silenzio e vi sarete chiesti dove ero sparito, dove eravamo spariti. Eravamo ancora qui, che bevevamo birra e che parlavamo al vento. Grazie ancora a tutti per questi contributi. Stiamo giungendo a fine, sono le 8:10, mancano 20 minuti, quindi forse il tempo di un'altra canzone, poi qualche informazione da Iran, Iraq e Siria, e poi vi lasciamo alla garufa, il tango dalle 8 e mezzo fino alle 10:30 circa. Quindi buon ascolto ancora di un gruppo al chilometro zero, Un Passant, Extinction. Dalle valli piemontesi di Torre Pellice ascoltiamo il contributo di Murat Cinar, giornalista del giornale online Presenza, che ci descrive la situazione del Iran. La situazione in Iran è una delle più gravi, diciamo, dei paesi che ha diciamo, si è affrontato con la questione della coronavirus. Addirittura si dice che forse dopo la Cina, ancora prima dell'Italia, un paese che ha subito più danni da questa epidemia, anzi pandemia, e il problema è che la media iraniana ufficiale non parlano molto di quello che succede nel paese, ma anzi questi giorni, secondo i contatti che abbiamo avuto, parlano tantissimo dell'Italia. Infatti io personalmente ho ricevuto moltissime telefonate di amici, parenti o chi ci conosce, conosciamo in Iran, preoccupati dalla situazione in Italia, perché poi il fatto che comunque in Iran la notizia e l'informazione non gira come si deve. Per quanto riguarda questo paese, anche perché il fatto che è anche sotto un embargo che ancora complica più la situazione della gestione delle crisi in questo paese, oltre che anche la responsabilità politico della cattiva e mal gestione dell'amministrazione di Rouhani per quanto riguarda la battaglia contro il coronavirus. Infatti molti degli iraniani pensano che il governo non racconta la verità, anche per quello che è successo già tempo prima, le varie manifestazioni che sono state già nel mese di novembre e poi anche l'abbattimento dell'aereo ucraino su Teheran. Infatti il governo aveva mentito su questa notizia e anche sul numero delle persone vittime di questi due eventi che ho parlato. Su questo io ho intervistato anche il marito di Nasrin Sotoudeh, avvocata dei diritti umani, giovedì, parlando della situazione del carcere, perché diversi prigionieri politici hanno iniziato un sciopero della fame, ma poi adesso ieri hanno deciso di interrompere per un po' rispettare la situazione psicologica dei detenuti che sono rimasti in carcere, malgrado la propaganda del regime di liberare più di 85.000 prigionieri in Iran, non politici. Di questi sono pochissimi prigionieri politici che, come li chiama l'autorità iraniana, prigionieri di sicurezza, sono stati pochissimi ad avere il congedo di andare a casa, mentre moltissimi nomi, tra cui sindacalisti e difensori dei diritti umani, ecologisti, sono ancora in carcere. Allora, dopo il primo paese che abbiamo trattato, l'Iran, passiamo alla Siria, un altro paese sempre complicato, difficile, soprattutto sta affrontando con un po' di difficoltà la situazione. Io sono riuscito a dare un'occhiata a diverse testate giornalistiche, tra cui anche quelle straniere fuori dalla Siria, Deutsche Welle, oppure The New York Times, oppure un portale di notizie che trasmette in turco, arabo, curdo, Ahval News, insieme a Mesopotamia News Agency, che è un'agenzia turca che lavora molto anche sul territorio siriano, e anche Frat News, che è attivo tra il nord della Siria e il nord dell'Iraq. Allora, sembra che la situazione in Siria sia divisa in due parti, ma credo che sia prevedibile. In prima parte possiamo parlare delle zone controllate fortemente ancora dal governo centrale, quindi Damasco, una parte di Aleppo, oppure il resto delle zone che sono legate a queste città. Allora, il Deutsche Welle ha intervistato diversi esponenti del governo che dicono, comunque parlano del sistema sanitario in condizione precaria dovuto all'embargo, alle sanzioni che non gli permettono di comprare delle medicine, e hanno dei sistemi bancari bloccati ovviamente, quindi non riescono a fare acquisti da paesi stranieri, che possono essere medicine oppure apparecchi legati al sistema respiratorio. A Damasco vivono circa 7 milioni di persone, e in questa città magari no, però già fuori Damasco e nel resto del paese ovviamente ci sono condizioni molto precarie legate al vitto, alloggio, quindi un cibo decente, un posto decente dove dormire per vivere. Controlli ci sono, soprattutto in confine con Libano e con l'Iraq, una volta che ci sono stati identificati i primi casi, e obbligano i cittadini che rientrano in Siria dall'estero di fare un'auto quarantena per 14 giorni. Per il momento ci sono nel paese 150 sospetti, ma nessun caso positivo secondo i medici ufficiali che si esprimono. Hanno creato fuori Damasco una zona di quarantena, tuttavia sui social hanno trasmesso ai cittadini le immagini della situazione molto precaria, delle condizioni molto precarie, quindi in pochi giorni il governo ha spostato la zona quarantena in un posto molto vicino all'aeroporto di Damasco. Dal 14 marzo fino al 2 aprile in Siria le scuole e le università sono chiuse, ospedali, farmacie e supermercati sono aperti, il resto è chiuso, come le moschee, chiese oppure altre fabbriche. Ovviamente conferenze, manifestazioni, matrimoni, feste non ci sono. Il Ministero della Salute informa le persone attraverso i manifesti appesi in città oppure gli SMS che mandano tramite gli operatori telefonici. Ovviamente la situazione diventa ancora più precaria quando si va verso il nord del paese. Come ben sapete, nel nord del paese sono presenti ormai diversi eserciti, l'esercito turco, russo, oppure l'esercito, oppure militanti iraniani, oppure diversi gruppi armati sparsi soprattutto in zona Idlib, che è la zona di grande conflitto in questo momento. In un lavoro realizzato da New York Times e il portale turco Ahval, ho visto che sono state intervistate diverse persone, soprattutto persone che lavorano in diversi campi rifugiati, persone che lavorano per diverse associazioni che offrono il servizio sanitario gratuito. Ovviamente qua la condizione prende un altro profilo. Le persone intervistate parlano del fatto che in certi campi manchi pure l'acqua, e quindi noi stiamo parlando di lavarci le mani in continuazione, lavare la nostra casa, e ci lamentiamo di non poter trovare l'alcol oppure igienizzante per le mani, però in zone Idlib ci sono dei campi in totale che ospitano 1 milione di persone in confine turco, dove scarseggia pure l'acqua, e quindi alcuni medici dicono: voi ci dite di tenerci puliti, però senza acqua come facciamo? E la voce gira che i test, i kit per fare appunto test mandati dall'Organizzazione Sanitaria Mondiale sono rimasti nelle mani dei gruppi armati in zona Idlib e non sono stati consegnati agli operatori sanitari. Ovviamente questo discorso è totalmente da verificare, però non è assurdo, perché come dicevamo, nelle grandi vie importanti di comunicazione nel nord della Siria, soprattutto in Idlib, M4 e M5, queste grandi autostrade, sono parzialmente sotto il controllo dell'esercito turco, russo, siriano oppure di diversi gruppi armati. Quindi il passaggio di qualsiasi tipo di aiuto umanitario ovviamente diventa difficile. Per quanto si riesca a capire, 135 casi sospettati esistono, ma nessun identificato, nessun positivo anche in questa zona. E i sistemi ovviamente che aiutano alla respirazione artificiale sono molto limitati. Per circa 4 milioni di persone in zona ci sono malappena 150 apparecchi, dicono le persone intervistate in questo lavoro. Se andiamo un po' più a nord, verso il nord-est della Siria, quindi la zona controllata ancora dalle YPG, YPG, PYD, quindi il sistema federale, il sistema dei cantoni tuttora funzionante, e c'è il divieto di uscire fuori casa dal 23 marzo a tempo indeterminato. Disinfezione in atto. Frat News ci riferisce che ci sono comunque già dei danni economici importanti, i mercati non sono affollati, i negozianti si lamentano, a Kamishlo particolarmente hanno sospeso il trasporto pubblico. Nessun caso è stato identificato finora nel nord-est della Siria, però anche loro si lamentano in questa intervista che ho letto di un sistema sanitario molto precario. Questo è quello che possiamo dire molto velocemente della Siria. Io proporrei di spostarci verso l'Iraq, Kuwait. Che dici? Infatti, comunque, il fonte anche della mia notizia, informazioni sono Al Jarida e Al Qabas, che sono due giornali di Kuwait, e televisioni, varie televisioni, ad esempio a Somalia, che è un canale iracheno, che iniziando con quello dell'Iraq. Il problema dell'Iraq anche sono la questione della fede della popolazione. Questi giorni corre anche l'anniversario della morte di Imam Qasem, che è il sesto imam sciita, che è molto, diciamo, è un santo sciita che gli iracheni, non solo tutti i sciiti del mondo, vanno a pellegrinaggio al suo santuario nella vicinanza di Baghdad, casa mia, che è una frazione di Baghdad. E su questo, infatti, l'autorità, malgrado che hanno messo coprifuoco per quanto riguarda la popolazione, questi hanno sfidato la decisione del governo e migliaia di persone sono avviati verso il mausoleo di Al-Qalumeyn. L'autorità stanno chiedendo, addirittura le stesse autorità religiose hanno detto di non celebrare questa giornata per il bene pubblico, ma il governo ha minacciato anche di arresto di chi viola il coprifuoco. Il numero è ancora, i numeri ufficiali sono ancora bassi, però si teme per questo paese, per il fatto che non esistano quasi l'assenza della struttura sanitaria capace e efficace di affrontare una crisi del genere. Addirittura il governatore di Najaf, un altro dove c'è il mausoleo del secondo Imam Ali, santo dei sciiti, ha detto che se continua così le nostre strutture ospedaliere andranno in collasso e non riusciamo a rispondere alla crisi. Kuwait è un altro paese, però diciamo quel paese è ancora un po' più, diciamo, è più ricco, ha più struttura, però sta chiedendo addirittura agli stranieri, che sono maggior parte degli lavoratori, medici, insegnanti e mandopera, tipo i collaboratori, collaboratrici domestiche, sono tutti di nazionalità straniera, di questi molti arabi dall'Egitto, in Libano, palestinesi, siriani, che lavorano in questo paese. Il ministro della sanità ha detto al ministro della pubblica istruzione, ha chiesto, visto che la chiusura delle scuole e università quotidiane fino al 4 di agosto verrà chiuso tutto quanto, ha detto se gli insegnanti vorrebbero, i lavoratori vorrebbero partire, li concederanno il visto di uscita dal Kuwait. Forse l'autorità pensano che così possono rallentare il rischio e il pericolo del virus. Ci sono in Kuwait la DAT, questo sono circa 129 dei contagiati del virus, e stanno puntando moltissimo su quartieri dove vivono, dove c'è un alto concentramento degli immigrati, lavoratori immigrati in Kuwait. E su questo il procedimento, anche lì Kuwait ha deciso di creare una specie di coprifuoco limitato, ma non ancora al 100% applicato per tutta la popolazione. Adına aşk devrimdir, mağlup galip fenik bindir. Aşkar sabah, aşkar gece, aşk mücadeledir. Aşk bir molotov kokteyli, Fazer merde kalem misali Dahin doğrudan eylemdir Aşk pasif direniştir Aşk İstanbul'da bir sokak Aşk Berlin'de bir sukuat Bir, iki, üç bazen binlerdir Aşk örgütlenmektir Aşk İstanbul'da bir sokak Aşk Berlin'de bir sukuat Bir, iki, üç bazen binlerdir Aşk örgütlenmektir Aşk alleni, aşk maskesiz yürümektir Aşk kırılmış bir tüfektir Aşk müşterektir Aşk bir kadim bak tutumu Aşk kara kızıl bayrak oldu Aşk mor yeşil ve pembedir Aşk rengarenktir Aşk Ankara'da bir meydan Aşk Atina'da yanan cam Aşk alevler içindedir Aşk diyalektiktir Aşk Ankara'da bir meydan Aşk Atina'da yanan cam Aşk alevler içindedir Aşk diyalektiktir Aşk Ankara'da bir meydan Aşk Atina'da yanan çam